Vendo tutto di Matteo Caccia. Venerdì al Salone del Libro vendo uno scatolone che è pieno di libri. È da gennaio che li ho chiusi in casa. Lo aprirò solo in diretta perché ho paura che se scoprissi quali libri ci siano dentro non lo venderei più. Quindi vado avanti, dritto, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un asciugacapelli. Allora, asciugacapelli per tutto il mondo, giusto? Però in Italia c'è questa roba di chiamarlo phon. Prima si è aperta una piccola bagarre sul gruppo Facebook. Poi diciamo due robe anche su Facebook e su Bocchino, ma ne parliamo dopo. Su come viene chiamato il phon, giusto? Io ero convinto che solo in Sicilia fosse chiamato fono. E invece è venuto fuori che praticamente ovunque in Italia lo chiamano fono. Lo chiamano fono in Abruzzo, lo chiamano fono a Roma, lo chiamano fono in Umbria. Addirittura qualcuno dice che in dialetto milanese si dice fono. E poi da lì, vabbè, è venuto giù un delirio di nomi. Sapete i nomi con cui vengono chiamati gli oggetti nelle diverse parti d'Italia? Ad esempio, c'è questa roba che in Toscana la tuta da ginnastica la chiamano Tony. Ma proprio Tony, se tu vai al mercato, adesso non mi ricordo se a Firenze o a Livorno, comunque, perché poi lì sbagli a mettere un piede di qua e di là, ti pigli le mazzate, però Tony 15 euro ed è proprio la tuta, alcuni dicono che la tuta da lavoro, no, proprio la tuta da ginnastica. E poi vabbè, insomma, al sud mi ha scritto Marco, il telo da spiaggia viene chiamato tovaglia, però non ci mettiamo qui, altrimenti non ci fermiamo più, perché oggi si parla di questo asciugacapelli, questo phon. Se volete vederlo andate come al solito sul sito, sul profilo Facebook Vendo Tutto, Matteo Caccia Vendo Tutto. Due robe su Facebook, visto che ieri ho aperto questa questione di Bocchino che c'ha un profilo Facebook e aveva ieri aveva 1876 amici, oggi ne ha 1887, quindi ha incrementato di 19 amici in 24 ore. E io avevo detto, boh, mi sembra brutto che il profilo Facebook del programma abbia meno amici di Bocchino. E devo dire che vi siete dati da fare e vi ringrazio, perché da 1709 che eravamo ieri, oggi siamo a 1817. Ci sta comunque che siamo 70 amici sotto Bocchino. Vedete voi, Matteo Caccia Vendo Tutto il profilo, poi fate voi. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:12, fortunatamente a Milano il tempo è sempre brutto, quindi siamo sicuri che le cose vadano come devono andare. Parliamo invece del phon. Oggi si parla di questo phon, che è mio ovviamente perché lo vendo, però oggi vorrei parlare in particolar modo di quelle menti che hanno una capacità di vedere le cose non solo dritte, no? Anche un po' di sbieco, per cui riescono a usare gli oggetti in un modo che non è quello canonico. Ad esempio, il phon in sé ha mille modi per essere usato, che non sia solo per asciugare i capelli. Ve ne dico alcuni, poi ve ne dico altri durante la puntata. Mi scrivono, Paola mi scrive, asciugare lo smalto per le unghie. Addirittura un ascoltatore mi scriveva che un suo amico lo usava per scaldare le lenzuola, per scaldare la resina, non so fare che cosa, quindi immagino che sia un artigiano. Poi vabbè, uno mi ha scritto che un suo amico lo usa per addormentarsi perché il ronzio lo rilassa. Però questo secondo me è una bufala. È questo che però, per questo motivo che oggi vi chiedo tutti gli oggetti che voi usate in un modo che non sia quello canonico. 800240024 oppure 349-238-6666. Vi faccio degli esempi. Di solito questa cosa accade quando si è bambini oppure quando si è un po' più anziani. Per cui tipo da bambini si usano i sacchetti per buttare l'immondizia come slitte. Qualcuno usa dei vecchi frigorifero per far diventare una libreria. Ho visto una televisione che è stata sigillata ed è diventato un acquario. Un amico della faggina ha usato una tavola da surf ed è diventato una scrivania. Ma anche una macchina, addirittura un'automobile, diceva Paolino, no, sempre Laura, in un cortile è diventato un pollaio. 800240024 oppure 349-238-6666. Oggi parliamo del secondo grado di utilizzo di un oggetto, perché è facile usare l'oggetto per quello che viene, giusto? È stato creato per asciugare i capelli. No, noi lo usiamo anche per asciugarci lo smalto delle unghie. 800240024. Volete vedere il phon? Andate sul sito. Volete sentire la sua storia? Pronti? Via! Asciugacapelli da viaggio marca Braun, modello Cosmo 1000, potenza 1000 watt. Doppia impostazione di regolazione del flusso, dimensioni estremamente compatte, colore grigio. Utile per asciugare i capelli, ma anche per accendere il barbecue, asciugare abiti bagnati o gonfiare canotti. Valore commerciale 17,50€, base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Noi italiani siamo gli unici a chiamarlo phon. In tutto il resto del mondo lo chiamano asciugacapelli. Non so perché abbiamo preso l'abitudine di chiamare un elettrodomestico con il nome tedesco di un vento. Il Föhn è il nome che in Germania danno al vento che scende dalle montagne e che si è scaldato nel momento in cui il vapore acqueo è diventato pioggia. Questo vento però ha anche un nome italiano e il nome è Favogno. Allora io mi dico, ma perché l'asciugacapelli non lo chiamiamo Favogno? Tipo, mamma scusa, dov'è che hai messo il Favogno che mi devo asciugare i capelli? In Sicilia lo chiamano Fono, l'ho già detto, ma quella è un'altra storia. Quando ero bambino mi annoiava talmente tanto asciugarmi i capelli che me li tagliavo sempre cortissimi. C'era la mamma di un mio amico che faceva la parrucchiera, o la pettinatrice, come dice mia nonna. E dal cortile di casa sua, attraverso la porta di servizio, si intravedevano queste signore, con le teste gonfie, che se ne stavano sedute mentre lei le fonava per ore e ore. Non ci ho mai visto un uomo là dentro. Forse è per questo che mi sono messo in testa che asciugarsi i capelli fosse una perdita di tempo, e per di più una roba femminile. E inoltre avevo una paura segreta che non ho mai rivelato a nessuno. Ero terrorizzato di rimanere folgorato. Non ricordo nemmeno quale fosse il titolo del film che avevo visto. Era un film in cui a una ragazza, mentre faceva il bagno, finiva in acqua un phon acceso. Guardate, ho ancora chiara l'immagine di lei che si contorce nella vasca tra saette e scariche elettriche, prima ovviamente di sprofondare sotto la schiuma. Le ossessioni però non si limitavano a quello. Sapevo che ad esempio asciugarsi i capelli con il pavimento bagnato era pericoloso, quindi indossavo sempre gli zoccoli di legno per isolarmi. Oppure temevo di ostinarmi la pelle con l'aria rovente del phon, insomma un delirio. Anche perché avevo raffreddore. Finché mia mamma non trovò un modo per distrarmi mentre lei mi asciugava i capelli. Facevo così. Dunque sia me che mia sorella lei faceva il bagno il sabato pomeriggio. Poi ci portava in salotto e accendeva la televisione sulla TSI, la televisione svizzera italiana, che in Piemonte e Lombardia si prendeva nitidamente. Mi spiace per tutti quelli che non sono piemontesi e lombardi, si sono persi forse la migliore televisione di quell'epoca. Prima bisognava assorbirsi chiaramente le estrazioni del lotto, che erano quasi più noiose di asciugarsi i capelli. Poi però iniziavano gli scacciapensieri. Gli scacciapensieri erano una serie di cartoni animati che sulla TV italiana non davano. Il mio preferito era quello in cui il signor Rossi ed il suo cane parlante, che si chiamava Gastone, in ogni puntata si agitavano alla ricerca della felicità, su una roulotte. La cosa però che ricordo meglio era la sigla iniziale. In questa sigla un animaletto strano, che era a metà tra un cane, un gatto, un elefante, se ne stava lì seduto annoiato, mentre qualcuno gli proponeva giochi e passatempi diversi, ma lui niente. Poi all'improvviso un tizio al telefono gli sussurrava la parola scacciapensieri e lui iniziava a ridere. E rideva talmente forte, ma talmente forte, da stare quasi male. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io. No, tu no! Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto! È scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! E vengo anch'io! No, tu no! Ma perché? Perché no! Gli scacciapensieri la TV svizzera non li trasmette più. E io continuo ad annoiarmi e ad asciugarmi i capelli. Il phon che vendo oggi però l'ho usato e come? Più e più volte. Per altri scopi che non fossero asciugare i capelli. Dunque, la prima volta che ho visto usare un phon per un fine diverso è stato durante una grigliata di famiglia. Le grigliate di primavera, avete presente, no? Quelle che si fanno nelle prime domeniche calde, in cui quasi sembra un sogno il fatto di poter stare seduti all'aria aperta, mangiando carne grigliata. Arrivai a casa e trovai mio padre che imprecava perché non riusciva ad accendere la carbonella per il barbecue. Ci provava buttandoci sopra quintali di diavolina, ma il risultato era pessimo. Cercava di agitare un giornale davanti alla brace nella speranza di ossigenarla, ma niente da fare. Io cercai di dargli una mano, anch'io soffiandoci sopra, però rischiai l'iperventilazione, senza ottenere nulla. Poi arrivò mio zio. Con aria serafica chiese se c'era una presa di corrente nei paraggi, e poi sparì. Quando tornò, aveva con sé un phon. Lo accese e lo indirizzò verso la brace. Il fuoco si accese e tempo 10 minuti stavamo grigliando salsicce e braciole. Ecco, da quel giorno conservai gelosamente il segreto che tutte le cose hanno sempre almeno un altro uso, oltre a quello per cui sono state costruite, e aspettai la prossima grigliata per sbalordire tutti. L'estate di quell'anno partecipai ad una grigliata tra amici in Umbria. e sulla strada verso la festa mi fermai in un negozio di elettrodomestici e comprai questo piccolo fondaviaggio. Quando arrivai, purtroppo il fuoco era già acceso e ardeva manco fosse un roveto. Io però approfittai del fatto che tutti i presenti avevano una gran fame e cominciai a dire che di questo pasto avremmo mangiato alle 4 del pomeriggio e sobillavo quindi più affamati. Mentre la tensione si alzava e stava per scoppiare, io trovai la soluzione. Tirai fuori il mio fonino, nuovo di zecca, e lo sparai contro la legna che bruciava. Il fuoco iniziò a scoppiettare e tra gli «Oh, generali!» in un attimo la legna divenne brace. Mentre mangiavamo le costine grigliate grazie al mio asciugacapelli, nella tavolata partirono riflessioni filosofiche riguardo a quanto, no, ognuno di noi sia disabituato a pensare le cose in maniera diversa da quella che ci viene proposta. E lì il mio piccolo Fon divenne il protagonista della giornata. Iniziamo tutti a pensare a quante cose si sarebbero potute fare con quel piccolo oggetto. Ci mettemmo a farle. Il padrone di casa tirò fuori un canotto e nonostante la valvola fosse molto piccola, lo gonfiammo. Però la serie di utilizzi del Fon erano davvero infinite. Ripulire la tavola dalle briciole, asciugare le magliette sudate, liberare il terrazzo dalle foglie secche, tenere lontane le zanzare, se c'è una parete imbiancata di fresco, oppure asciugare la pittura. Perché tutte le cose hanno almeno un altro modo per essere usate. Eppure, niente. Nonostante i suoi 1000 utilizzi, questo phon è in vendita. Il suo valore è di 17,50€. La base d'asta sono 99 centesimi. Se avete scoperto altri modi di usare altri oggetti, 80024-0024. Black and white crime, well he lives by that memory and falls from his mind. And you know it's a lion's heart that will tumble and tear apart when he's coming down the hills for you. 16:24, comunicazione in servizio, se state per venire a Milano non venite perché sta venendo giù un diluvio che sembra di essere in Amazzonia. Torniamo invece al phon, perché sono molti di più di quanto immaginassi gli usi con cui si può sfruttare questo elettrodomestico. Il phon, alzare la temperatura del termometro, stare a casa da scuola, e vabbè. Il phon è utilissimo come mio rilassante cervicale, infatti esegue un'applicazione fisioterapica di calore esogeno come il termoforo. Saluti Paolo. Ciao Matteo, uso le lamette da barba come cutter. Non so cosa sia. E poi ancora, mia moglie ha usato lo spazzolino per i denti per lavare e pulire gli spazi tra una piastrella e l'altra. Vabbè, questa grazie. Ciao, faccio la disegnatrice e ci asciugo i disegni per poter continuare il lavoro senza aspettare. A mio figlio do da leggere Topolino mentre gli asciughi i capelli. Fiammetta. 80024-0024, sentiamo invece altri. Ecco, non ci credo. Alfredo da Trieste. Sì. Ma, sì, sono Matteo. Tu sei Alfredo? Ciao, benissimo, allora siamo in due. Ma allora questa roba di far addormentare col phon funziona? Sì, ma funziona benissimo, perché i bambini quando erano piccoli, cioè la bambinaia ci aveva insegnato a toglierli fuori dal bagno e ad asciugarli col phon, cioè così si calmavano. Sì. Dopo, quando sono diventato più grandi, quando avevano, cioè, qualche colica, accendevamo il phon e stavano buoni e gli passava. Cioè, Ma il phon dove glielo sparavi? No, glielo metti vicino. Ah, vicino. È proprio il suono. Solo per il rumore, sì, quel rumore gli fa addormentare. I nostri bambini ha funzionato benissimo. Ma quanti anni hanno adesso, Alfredo? No, adesso hanno 4 anni e 2 anni, cioè, però sai quando hanno 6 mesi, 7 mesi, un anno, diciamo quando hanno ancora le coliche, cioè serve, è servito molto. Quindi probabilmente perché hanno sentito quel rumore quando erano e appena quindi nati, lo associavano, certo. Sì, Alfredo, sì. Grazie mille, buona giornata. Figurati, ciao, alla prossima. Grazie mille. Complimenti per il metodo con cui fai addormentare i tuoi figli. Gilberto della provincia di Trento. Pronto, Gilberto? Ciao, buongiorno. Eccoci qua. Dai, raccontami qualcosa sul phon, che a sto punto vale qualsiasi cosa. L'ho scoperto in un'uscita studio, quelle uscite studio che si fanno in quinta superiore, adesso 35 anni, ormai il tempo è passato. Passa e per tutti. Ho messo un paio di classe, sì. E col phon si scaldava la tavoletta del WC prima di sedervici sopra, no? Si preparava caldo il posto. Ho capito, ma quella è una roba... Ok, va bene. Cioè... Utilizzo un po' insolito, però. No, certo. Guarda, ma abbastanza freddo. Gilberto, l'ho detto prima, vale tutto. Ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao Gilberto, ciao, andiamo ciao. A provincia di Roma da Fabrizio. Pronto Fabrizio? Salve, sono Fabrizio. E io sono Matteo, come va? giusta. Bene, grazie. Benissimo. Senti, allora volevo sapere qualcosa col forno. Sì. Ho imparato questo stratagemma da una signorina austriaca che ha avuto ospiti in casa per alcuni mesi. Sì. E in pratica lei, per rendere più fino l'impasto e in pratica la sfoglia per fare lo strudel, oppure per fare la pasta all'uovo, sì, una volta che era spianata sulla tavola, prendeva il forno e sollevava la sfoglia e faceva funzionare il forno per renderla ancora più sottile. L'ho sì. trovato che è uno stratagemma ideale per rendere proprio la sfoglia. Fabrizio, tu sei un cuoco? No, io sono un economista. Sei un economista? Sì. Di la verità, Fabrizio, guarda, giuro che non mi arrabbio, sei un consulente? Attualmente sì. Ecco, lo sapevo. Ma perché si sentono gli uccellini dietro di te però? Perché sto in un campo da golf. Ah, ok. Adoro te e tutti i consulenti. Grazie Fabrizio, buona giornata. Ciao, alla prossima. Qua ci sono degli usi meravigliosi. In viaggio utilizzai un ferro da stiro come fornelletto. Diventai l'eroe dell'estate. In Calabria, un autobus adibito a pub. Uso gli occhialini da piscina per tagliare la cipolla. E poi ancora, vasca da bagno, in vaso pieno di terra per i pomodorini sul balcone. E poi, io uso il phon per togliere la vignetta autostradale sul vetro dell'auto senza romperla per andare in Svizzera. Grazie a tutti. Grazie a Laura Faginti, Sano Bonini, Alessandro Genovesi e Paulino Corleoni. Il phon è sul sito, come al solito, mentre domani vendo una mini caffettiera per una persona, una roba triste ma che funziona. Cercate sempre altri modi per usare i vostri oggetti, che alla fine quello più interessante non è solo quello più evidente. Love, love, love.